1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti in quest'istante, cari amici miei, è venerdì. Cari amici, cari debosciati tutti, e si è chiusa ufficialmente, si chiude oggi la 75esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e per la riforma elettorale. Non è successo nulla di quello che speravamo, ma la 76esima settimana è alle porte e noi confidiamo in questo. Oggi avremo ospite alle 8:45 l'avvocato di Totò Riina, Luca Cianferoni, per parlare di questa vicenda della mancata convocazione in aula, o meglio al Quirinale, vabbè, sarebbe stato in videoconferenza per l'udienza di Napolitano. Però prima parleremo di lavoro. Sapete che è successo in Veneto? Si sono presentati in 7.000 per un posto da infermiere a Vicenza, da tutta Italia, e il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che sarà ai nostri microfoni, dice: ora basta, prima i veneti, nella sanità, dove noi siamo virtuosi, vorremmo concorsi con preferenza a chi è residente in regione. Con lui dibatterà anche Pino Aprile, giornalista e scrittore. Saranno nostri ospiti dalle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani. Questo venerdì 10 ottobre i titoli, il Sole 24 Ore mette in prima pagina spending, tutti i tagli ministero per ministero. I risparmi maggiori arrivano da lavoro e istruzione. Poi Draghi è in prima pagina per il Corriere della Sera. Draghi, assumere, non licenziare. Questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, Draghi, i governi senza riforme saranno cacciati. Il Messaggero, Draghi, ora più assunzioni. A proposito di lavoro, il ministro Poletti è intervistato sulla Stampa. Così cambia il lavoro, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano si concentra sulla vicenda dell'udienza di Napolitano. Riina e Mancino giù dal colle, processo a rischio nullità. Mentre Libero, il marchese del colle, e c'è la foto, o meglio un disegno di Giorgio Napolitano. Io so io e voi... E vabbè, sapete come finisce la frase, eh? Il Giornale, il PD in piazza contro il PD. Mentre Avvenire, Ebola ora fa paura, ci sfida come l'AIDS. Il Manifesto, invece, il titolo di prima pagina è Cuore d'acciaio, la Thyssen abbandona le trattative e licenzia 537 operai dell'acciaieria di Terni. A proposito di lavoro che non c'è. Io però voglio partire da quello che è successo a Napoli, qualcosa di incredibile, non tanto e non solo di incredibile e di esecrabile l'atto di violenza nei confronti di questo ragazzo di 14 anni, ma incredibile a mio modo di vedere le giustificazioni che si sono sentite ieri in audio, le potete trovare su internet e sono state mandate anche in onda ieri alla Zanzara. Dei parenti di coloro che hanno seviziato in maniera molto violenta, mandandolo in fin di vita un ragazzino di 14 anni, sparandogli dell'aria con quelli dell'aria compressa, no? Quei compressori degli autolavaggi, proprio lì nel di dietro, e perforandogli l'intestino, mandandolo in fin di vita. Le giustificazioni, io non ci volevo credere, dei parenti, della mamma, il papà, delle persone arrestate. Persone di 24 anni che dicevano: ma era uno scherzo, è uno scherzo finito. Ma sì, non si fa, ci rendiamo conto, non si fa. Ma accusarlo di omicidio, ma ci rendiamo conto. E allora tutti i giornali raccontano il dramma di questo 14enne seviziato a 14 anni perché è obeso. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera. L'aggressione in un autolavaggio, fermato un 24enne che dice era un gioco. Un gioco! Pensate che racconta Fulvio Buffi sul Corriere della Sera, che pare gli abbiano detto così: vieni qua, siccome sei grasso, ora ti gonfiamo un altro po'. E poi gli hanno appunto sparato l'aria. Parla la mamma di questo ragazzo. Su Repubblica, intervistata da Cristina Zagaria: hanno rovinato mio figlio e adesso nessuno osi dire che era solo uno scherzo. Non è stato un gioco, non lo deve dire nessuno, dice questa mamma. Quel ragazzo ha tentato di ammazzare mio figlio e chi era con lui è un vigliacco perché non è intervenuto per aiutarlo. Anche un cane si soccorre, loro invece non lo hanno fatto, sono senza cuore. Vincenzo è soltanto un bambino. Ora dice sta meglio, i medici sono cauti, ma migliora ogni giorno. È successo così: martedì mi arriva una telefonata, signora, suo figlio in ospedale, ha avuto una cattiva digestione, non riconosco la voce al telefono, ma corro subito in ospedale. Al che Repubblica dice: mi scusi, le sta dicendo che l'hanno avvisata gli aggressori? Credo proprio di sì. Il telefono poi l'ho ritrovato nella sella del motorino di mio figlio. Vincenzo non sa bene quel che è successo, non gliel'ho spiegato, gli ho solo detto che l'hanno operato perché aveva aria nella pancia. È così piccolo per affrontare tutto quello che gli sta succedendo. Era andato lì a lavare il motorino, era andato col papà, Salvatore, che però ha finito prima ed è andato via. Allora Vincenzo ha detto: sono rimasto ad aspettare, mi sono seduto di lato su un divanetto, giocavo col telefonino, quando ho sentito qualcuno afferrarmi alle spalle e poi tanta aria. Sono caduto per terra, quando mi sono rialzato ho cominciato a vomitare, poi credo di essere svenuto e mi sono ritrovato in ospedale. Ecco, questa mamma dice ora, arrabbiata, che è uno scherzo questo, un gioco è buttare un secchio d'acqua, tirare uno schiaffo, non perforare l'intestino e rischiare di ammazzare una persona. Anche un bambino di 10 anni lo capisce. Quel maledetto che ha ridotto così il mio bambino è un padre di famiglia, ha un piccolo di 2 anni. Come ha fatto a non pensarci? È senza cuore, come senza cuore quei due che non lo hanno difeso. Vigliacchi, vorrei la sedia elettrica per loro, vorrei che soffrissero come ora sta soffrendo Vincenzo e soffrirà negli anni futuri. Vabbè, questo giustamente sono parole comprensibili nella bocca di una madre totalmente arrabbiata. Questa è la vicenda successa a Napoli. Mentre vicenda di ben altro tenore che ha suscitato molte polemiche è quella dell'udienza al Quirinale, in cui i boss non saranno ammessi, anche se dovevano essere in videoconferenza. Alla fine è arrivato il no da parte della Corte di Palermo, la Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, che ha spiegato come il Quirinale, come sede di un'udienza, non è paragonabile a un tribunale. E quindi per questo, per un principio di pubblicità che certo è giusto, ma non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, obiettive, razionali. Una di queste è il fatto che la prerogativa, insomma, di tutelare i beni a rilevanza costituzionale, come il Quirinale, insomma, con queste motivazioni, Rina Bagarella, ma anche Nicola Mancino e anche la presidente dell'Associazione delle Vittime dei Giorgofili, Giovanna Maggiani Kelly, non potranno assistere all'udienza di Giorgio Napolitano. Apriti cielo, le polemiche, il Fatto Quotidiano da 2 giorni insiste, così è nullo tutto, così è sbagliato. Sabina Guzzanti, che incredibilmente ha mandato un tweet in cui ha manifestato solidarietà a Riina e Bagarella. Sì, è vero. Che la solidarietà era perché sono testimoni e quindi devono assistere al processo. Non ho capito perché non abbia manifestato solidarietà in questo tweet a Giovanna Maggiani Kelly, per esempio, che anche lei aveva chiesto di intervenire, a Nicola Mancino, che anche lui aveva chiesto di intervenire. Cos'è? Solidarietà solo per 2 di questi imputati che non possono intervenire? Guarda caso 2 mafiosi sanguinari che hanno sulla coscienza decine di vittime e di persone fatte saltare a pezzi sul tritolo. Vabbè, comunque Sabina Guzzanti si difende, intervistata da Antonella Mascali sul Fatto Quotidiano: solidarietà ai 2 mafiosi, l'Italia è ipocrita. Dopo il fiume di reazioni politiche contro Sabina Guzzanti per la sua solidarietà espressa al boss Riina e al boss Bagarella, dice lei: io ho detto una cosa molto precisa, Riina e Bagarella hanno il diritto di assistere al loro processo perché è la legge che lo dice. È ovvio che la parola solidarietà accanto ai loro nomi è una provocazione, ribadisco, però la solidarietà alla parente delle vittime, no? A Maggiani Kelly, quella non c'è. Comunque, le reazioni, dice Sabina Guzzanti, dimostrano il conformismo e l'ipocrisia di tanti italiani, perché di fronte a una provocazione di questo tipo tutti sentono di potersi indignare, ma nessuno si indigna di fronte alle prove che una bella fetta delle nostre istituzioni sta dalla parte della criminalità. I familiari sono consapevoli che le stragi sono state compiute con la complicità delle istituzioni, risponde così ancora Sabina Guzzanti alla domanda, proprio non ha pensato che potesse ferire i familiari delle vittime. Poi ancora aggiunge, pentita, sono pentita solo perché ogni tanto mi dimentico di essere in un paese di ipocriti e collusi, mentre scrivo come se fossi in un paese libero. Devo ricordarmelo più spesso, che questa storia che non viviamo in un paese libero comincia a darmi un po' sui nervi, visto che in Italia si può dire, fare tutto quello che si vuole, come ha fatto lei un film sulla trattativa presunta Stato-mafia, e quindi proprio non libero questo paese, insomma, mi sembra un po' strano. Comunque questa è Sabina Guzzanti, ma prima della pubblicità c'è il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa più di questa giornata, ed è sul Corriere della Sera Lorenzo Salvia che racconta come 15 senatori democratici puntino lo stipendio di Ignazio Visco. Sapete quant'è lo stipendio del presidente della Banca Italia, il governatore della Banca Italia? 495.000 euro lordi l'anno. 100.000 euro in più di Mario Draghi a capo della BCE, 50.000 euro in più del presidente dell'American Federal Reserve. È vero che c'è il limite di 240.000 euro, state dicendo, per la pubblica amministrazione, ma Parlamento, che ha legiferato a parte, e Banca Italia costituiscono una anomalia, o meglio, sono autonomi. Quindi questo tetto non vale per il governatore della Banca Italia, e ora 15 senatori democratici dicono: ma come? 495.000 euro lordi l'anno? Perché? Perché così tanto? Io sono un giornalista che vale 250 dollari la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. Alessandro Milan, il cilentano dell'informazione. Sì, andava urlata un po' di più, però va benissimo. Grazie, caro ascoltatore. Anzi, grazie per questo tuo spottino. Allora, la riforma del lavoro continua a fare discutere. Oggi il ministro al lavoro Poletti fa un'intervista alla Stampa. Paolo Baroni lo intervista, pagina 3. Poletti: bisogna correre, ma perché il Jobs Act funzioni serve un cambio di cultura. Questo è il titolo. Dice Poletti: il risultato della fiducia al Senato è buono. La discussione ha consentito a chi aveva elementi di dissenso, ad esempio sull'articolo 18, di valutare che magari per una cosa che non gli stava bene ce n'erano altre 6 che apprezzava. Questo è l'esordio del colloquio con la Stampa di Poletti. Il nostro obiettivo è approvare la legge entro novembre, poi a inizio 2015 vareremo i decreti delegati. Abbiamo già preparato molti materiali, servirà qualche settimana in più perché il lavoro è molto complesso. Dunque, dice, i delegati entro inizio 2015, i decreti delegati. Sappiamo che nella legge delega sono fondamentali per, insomma, riempire la cornice. Bisogna correre, dice Poletti, ma non per smania mia o del governo a fare in fretta. È la condizione del nostro paese che ci impone di fare al meglio il più velocemente possibile. A me preme molto far capire, visto che la discussione si è focalizzata tutta sulla questione dell'articolo 18, che le operazioni che stiamo facendo partire sono rilevantissime. Per aver successo ci richiede un cambio di cultura del paese. Parla poi di qualche numero. Al momento lo stanziamento è 1,5 miliardi che sarà inserito nella legge di stabilità prossima per gli ammortizzatori. Al momento lo stanziamento è questo, però teniamo conto che proprio in questo momento stiamo chiudendo un rifinanziamento della cassa in deroga per altri 700 milioni di euro. Si tratta di uno sforzo non banale per finalizzare il nostro sistema di ammortizzatori. Noi comunque vogliamo passare da un sistema in cui lo Stato paga le persone per restare a casa senza alcun obbligo a un sistema di politiche attive, dove lo Stato e le sue strutture ti prendono in carico per offrirti nuove opportunità di impiego, ma tu in cambio devi fare la tua parte. Il destino dei contratti Coco Pro dunque è segnato, chiede Paolo Baroni della Stampa. Puntiamo a togliere dal campo i contratti più permeabili agli abusi, quelli più precarizzanti, quelli che hanno meno tutele. Puntiamo molto sul nuovo contratto a tutele crescenti che presenterà vantaggi dal punto di vista economico che normativo e potrà sostituire in meglio quelli cancellati. Così il ministro del lavoro Poletti sulla Stampa, mentre ieri su questo tema è intervenuto Mario Draghi in un dibattito a New York, anzi a Washington. Mario Draghi, parlando alla Brookings Institution, ha parlato anche della riforma del mercato del lavoro italiano. Come racconta Alessandro Merli a pagina 5 del Sole 24 Ore, il presidente della Banca Centrale Europea Draghi ha ripetuto che la banca è pronta ad adottare nuove misure di stimolo monetario per riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo. Eppure, evitando un commento diretto sull'approvazione della riforma del mercato del lavoro, ha sostenuto che maggiore flessibilità non porterà a massicci licenziamenti, anche perché l'economia è in recessione da tanto tempo che le imprese hanno già ridotto notevolmente la manodopera. Ha però precisato, scrive ancora il Sole, che la riforma del mercato del lavoro deve rendere più facili le assunzioni e non tanto i licenziamenti, ed evitare, come è avvenuto all'inizio del decennio scorso, che la flessibilità vada a spese dei giovani, i primi a perdere il posto all'inizio della crisi. Questi sono i concetti che ha stabilito Mario Draghi. Poi ogni giornale lo interpreta come vuole. C'è chi dice ha bocciato la riforma, in realtà non ha fatto un commento diretto, ha detto che la riforma, qualsiasi riforma del lavoro, deve rendere più facili le assunzioni anziché rendere più facili i licenziamenti. Mi sembra anche una cosa di banale giustizia sociale. Tra l'altro, su questa riforma del lavoro invece c'è l'aspetto politico, e sentite qua subito come scema l'attenzione, cala il tono della voce, perché segue dibattitone. Che fare all'interno del PD nei confronti dei tre senatori che non hanno votato la fiducia? La senatrice Ricchiuti, che era ai nostri microfoni il giorno della fiducia, oltre che il senatore Mineo e il senatore Casson. Che fare? Dibattitone. Secondo Repubblica, Goffredo De Marchis a pagina 2 e 3, in retroscena vede un Renzi deciso a fare una sorta di processo. Questa cosa non può passare inosservata. Mercoledì, dice Renzi ai suoi, abbiamo avuto la certificazione che la legislatura va avanti, non possiamo permettere a nessuno di frenare il cambiamento. Un Renzi che dice ai suoi non voglio precedenti. Ieri ha confermato in TV, intervenendo a Virus, da Nicola Porro, che probabilmente porrà la fiducia anche alla Camera. E che succede dunque a questi tre? Roberto Giachetti del PD è esplicito, bisognerebbe espellerli. Intervistato dal Fatto Quotidiano da Luca De Carolis, dice quei tre dissidenti sono già fuori dal partito. Io vado oltre, chi è rimasto fuori dall'aula poteva far cadere il governo andando contro una linea votata dalla direzione, e quindi se violi le regole ti metti fuori automaticamente. Serve una decisione formale che ne prenda atto, altrimenti, altro che partito liquido, rischiamo di diventare un partito sciolto. Mentre nei confronti di Walter Tocci, che ha presentato le dimissioni proprie al Senato, annunciato le dimissioni, su questo Renzi invece è più morbido, dice spero di convincerlo a rimanere. Il senatore Tocci oggi raccoglie un po' di interviste, viene intervistato da Repubblica a pagina 3, dal Manifesto a pagina 4, un'intera pagina, e poi l'ho visto anche da qualche altra parte, forse sul Messaggero. Walter Tocci dice io ringrazio Renzi ma ho presentato le dimissioni, verranno votate come succede in scrutinio segreto al Senato. Certo, quando al Manifesto si profila questa domanda, intervistato da Daniela Preziosi sul Manifesto, dice ma se poi il Senato respinge le dimissioni, beh, a quel punto vedrò che fare e valuterò. Comunque, sul Manifesto Tocci attacca questa legge, dice la legge del PD è peggio della legge fatta da Monti sul mercato del lavoro. Mentre invece ci si concentra sul dibattitone del PD, ci siamo dimenticati che tra qualche giorno c'è la legge di stabilità e che sono previsti tagli. Ecco, oggi il Sole 24 Ore in prima pagina mette i tagli ministero per ministero. Marco Mobile e Marco Rogari racconta la pagina 3 dove si vorrà andare a pescare un po' di soldini. I ministeri che sono chiamati a tagliare di più sono il Ministero del Lavoro, proprio quello di Poletti, 2 miliardi e 200 milioni, il Ministero dell'Istruzione di Stefania Giannini, 1 miliardo 170 milioni. Comunque tutti i dettagli li vedete a pagina 3 e devo dire sono un pochino stupito dopo il dibattito che c'è stato che i tagli alla sanità, almeno questo secondo quello che è a qualche giorno dalla legge di stabilità, i tagli alla sanità sono più contenuti di quello che si diceva. Mauro Meazza, o no? E mi sembra così. Bah, sembra di capire, a parte che poi se vedi l'elenco tra pagina 2 e pagina 3, buongiorno Alessandro, si vede che i tagli sono tutti molto, come si potrebbe dire, particolareggiati, cioè molto puntuali. Non si vedono grandissime cifre se non appunto in quel Ministero del Lavoro che tu citavi. Leggevo appunto poco fa tutte le schede che riportiamo a pagina 3 e vedo che si vanno a risparmiare un po' di milioni di qua, un po' di là, insomma, sì. Tagli grossi, tagli importanti non sembrano esserci per ora, perché c'è tempo naturalmente fino alla metà della prossima settimana, vediamo, perché il termine è il 15 ottobre, come sappiamo. Mentre, caro Alessandro, il 16 ottobre che termine è? L'Atasino. Caro mio, e purtroppo ci tocca, però insomma, per aiutare un po' tutti noi pubblichiamo oggi 4 pagine di riepilogo delle regole principali, specialmente proprietari, inquilini, modalità di calcolo di questa imposta, che poi naturalmente è tutta particolareggiata e tutta declinata in modo diverso comune per comune, e quindi noi ridiamo oggi una guida riassuntiva in 4 pagine con le norme principali. Ti voglio anche segnalare che ha fatto un passo avanti la riforma del codice della strada. La delega al governo, sì, per riformare il codice della strada, ieri ha ottenuto il primo sì in un'aula parlamentare, adesso alla Camera, adesso passerà al Senato. Ha fatto chiaramente meno rumore della riforma del lavoro, però è una riforma abbastanza importante, te la spiega poi Maurizio Caprino nelle pagine, indovina un po' quali. Di norme. Tributi. Esattamente. E allora con questo viatico, appunto parlando di codice della strada, io ti auguro una buona domenica, sarà serena per entrambi, sarà serena. Sì, sì, questa domenica sarà un campionato sereno. Il campionato alla grande. E quindi, con tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico. Carissimi fedeli, ascoltate Alejandro Milan e la sua rassegna stampa. Es el chierichetto dell'informazione. Palabra de Papa Francesco. Ecco, vabbè, il chierichetto non è male. Anche Papa Francesco abbiamo scomodato. A proposito di tagli, la questione viene posta dal Messaggero così: tagli nelle regioni, spunta l'imposta del 5% sui vitalizi degli ex consiglieri. È Diodato Pirone che lo racconta. Sullo scandalo dei vitalizi regionali sono in arrivo, se tutto andrà bene, 2 grosse novità: un contributo di solidarietà, cioè una tassa come minimo del 5%, ma probabilmente con percentuali crescenti al crescere delle somme in gioco, e l'innalzamento a 63 o 65 anni dell'età minima per ottenerli. Se ne parlerà questa mattina a Roma nella riunione dei rappresentanti di tutti i 20 consiglieri regionali, i consigli regionali italiani, riunione molto attesa perché esaminerà una proposta comune il cui studio è stata affidata al presidente del consiglio umbro Eros Brega. Vi ricordate, lo abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, ci preannunciava questi possibili modi per tagliare alcuni dei costi che gravano sulle regioni. E racconta oggi il Messaggero, le 2 proposte che possono essere più concrete sono far salire a 65 anni l'accesso per ottenere il vitalizio e chiedere ai vitaliziati un contributo di solidarietà, cioè una tassa. Certo, in realtà era stata posta l'idea di tagliare non come contributo di solidarietà, ma tagliare in maniera permanente per il futuro di una percentuale da individuare il vitalizio. Vabbè, se ci fosse un contributo di solidarietà ci accontenteremo di questo. A proposito di tagli, è ufficialmente ieri stato l'ultimo giorno per il commissario della Spending Review, Carlo Cottarelli. Dopodiché Carlo Cottarelli, che aveva chiesto di poter tornare al Fondo Monetario Internazionale, torna al Fondo Monetario Internazionale. E alcuni giornali si interrogano, Repubblica, Il Giornale, lo fanno in maniera più intensa. Vabbè, ma a cosa è servito? No, ma è servito sicuramente, ha fatto tanto. Il Giornale però mette i quattro super commissari che si sono alternati. Il Giornale, per la verità, scrive a pagina 8, pagati per non fare mai tagli. Hanno fatto annunci, proposte, dossier. Vi ricordate Piero Giarda? Poi c'è stato Enrico Bondi, nominato da Monti il 30 aprile 2012 fino al gennaio 2013. Poi Mario Canzio, che è stato commissario per circa 3 mesi dopo le dimissioni di Bondi. E poi Carlo Cottarelli, scelto da Saccomanni nell'ottobre 2013. Ieri ha lasciato l'incarico dicendo: cedo il testimone a un altro dopo di me. Carlo Cottarelli ha fatto anche tutti i dossier, ne abbiamo parlato anche, abbiamo parlato anche di questo tema, ha fatto tutta una serie di dossier, ha convocato commissioni di cui faceva parte anche il professor Riccardo Puglisi, che è stato nostro ospite, e tutte queste commissioni hanno prodotto delle proposte di studio, delle proposte concrete per tagliare i costi della pubblica amministrazione, e tutto ciò è rimasto sempre nel cassetto. Repubblica oggi lo scrive con Federico Fubini. In realtà la tematica è più ampia, quella sul giallo, sul debito pubblico italiano, che per l'Italia sarà al 131,6% nel rapporto col PIL entro la fine dell'anno, mentre il Fondo Monetario Internazionale dice: no, vi sbagliate, sarà al 136,7%. Manco sui numeri ci mettiamo d'accordo. Ma poi alla fine dell'articolo Fubini racconta proprio la storia di caso Cottarelli. C'è un caso: non sono mai uscite le carte sulla Spending Review, aveva svolto un lavoro molto corposo per mostrare dove intervenire, perché, ma non lo hanno mai mostrato in pubblico, il governo gli ha chiesto di non farlo, i suoi argomenti non sono mai entrati nella discussione nazionale. E va bene, avanti un altro commissario di Spending Review, ma d'altronde che politicamente ci sia qualcosa che non va, almeno il Corriere della Sera lo racconta con Francesco Verderami. L'articolo, ve lo segnalo a pagina 8, è il rapporto tra Renzi e i ministri, e si racconta di rapporti non certo idilliaci. Da Orlando allo stile Poletti, quei dubbi sulla squadra dei ministri. Renzi viene dato da Verderami come in perenne conflitto, diciamo così, con Padoan, ministro degli esteri, tanto che pensa soprattutto di mettere il suo fedele Faraone, Davide Faraone, a capo di gabinetto, dove capo di gabinetto ora di quel dicastero c'è Garofoli, che il premier vorrebbe far marcare a uomo dal suo fedelissimo Faraone. E poi non gli va molto bene neanche il rapporto con Poletti, considerato un buon tecnico da Renzi, ma il suo stile rotondo da Emiliano non si concilia con la velocità del fiorentino. E poi alcuni litigi ci sono stati anche con il ministro Pinotti, tutelati dalla riservatezza. Non ha gradito, per esempio, Renzi della Pinotti certe esternazioni da madre della patria, così ha definito Renzi ai suoi l'atteggiamento della Pinotti. Ancora altre invece frizioni sono filtrate all'esterno, come il clamoroso strappo col sottosegretario Delrio. Insomma, si racconta sul Corriere della Sera di rapporti un po' tesi tra Renzi e i propri ministri. Mentre, immaginate questa scena. Questa è una scena che un film di Totò non avrebbe potuto descrivere meglio. Franco Bechis lo racconta su Libero. Sapete che molti deputati non stanno alla Camera, ma stanno in alcuni palazzi che la Camera, e quindi tutti noi, paghiamo all'immobiliarista Sergio Scarpellini, proprietario della Milano 90, che fece con, all'epoca di Luciano Violante, presidente della Camera, un contratto di affitto per anni. Il contratto sta scadendo e la Camera vuole rivedere i costi o comunque trattare con Scarpellini. Allora hanno convocato Scarpellini alla Camera, e racconta Franco Bechis su Libero, a pagina 4, che c'è stato questo incontro. Come si presenta Scarpellini? Beh, immaginate la scena del film di Totò. Si presenta, racconta Libero, entrando davanti allo sguardo sbacalito di Stefano D'Ambruoso, Gregorio Fontana e Paolo Fontanelli, cioè i tre questori della Camera, parlando contemporaneamente con due telefoni due telefonini in lingue strane. I tre questori lo guardano e lui dice: un attimo, no, sono i cinesi da questa parte, scusate, di qui c'ho i russi. E poi mette giù i telefoni e dice: scusate, ma da quando volete lasciare voi gli stabilimenti qui, i miei uffici alla camera, mi stanno a chiamare tutti, russi, cinesi, arabi, tutti che vogliono. Una scena spettacolare, racconta Libero, da consumato attore qual è Scarpellini, insomma, ha detto: non dormo più, tutti vogliono quei palazzi che voi volete lasciare, e si presenta con due telefonini. Ma porcaccia di quella miseriaccia, ecco, diciamo così, questo è quello che ha fatto come scena Scarpellini per cercare di convincere quelli della camera a non lasciare questi palazzi. Vi segnalo solo che Stefano Zurlo sul Giornale, come tanti quotidiani, noi ce ne siamo occupati ieri, continuano a parlare del caso Ebola, perché è bene sapere, essere informati senza terrorismi. Stefano Zurlo sul Giornale, per la verità, racconta, come ci diceva ieri un'ascoltatrice, altro che quarantena o esami, sui barconi non c'è controllo. Racconta il Giornale: sulle nostre coste, con le difficoltà di accoglienza, i dottori salgono a bordo, valutano con una semplice occhiata lo stato di salute dei disperati. E i poliziotti dicono: può sbarcare un po' di tutto insieme alle persone, anche le malattie. Questo sul Giornale. Ma siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince con un'intera pagina. La Stampa, con Paolo Mastrolilli: care donne, voi che dite sempre di essere multitasking, sappiate che ci sono delle ricerche, mai esagerare col multitasking, danneggia il cervello fare troppe cose insieme, è come se si fumasse la marijuana, il multitasking. Ma chi se ne frega!